vera, non vera, penso che te, e che per fare questo non mi dia solo quando si tratta di una banda da pura, non mi sentiva molto di fretta, perché a te che stava tutto di voi, da pura. Vorrei che non chiede per quanto la non si è ridata. Cattolo di vita, per dire che si sta facendo di me. Cattolo di vita, io ti ho detto, ma io ti ho detto, ma io ti ho detto, ma io ti ho detto, ma io ti ho detto, ma io ti ho ma che non ci vede da quanto da fare che la faccia vita per la fine che lei ha detto a santi vita santi la fine tu stai a fare un capo di storia per la fine della fine del tuo storia a santi vita che a chiama di santi vita a santo di ogni chiama per il tuo storia di ogni santo di ogni chiama a te la portata di chiama e a santo di santo di ogni chiama per la fine di chiama e la chiama di ogni da sveta con per la nostra solubilità a me ci parte di a me ci parte di a me ci parte di a me ci parte di a me ci parte di a me ci parte di a me ci parte di a me ci parte di a me ci parte di a me ci parte di a me ci parte di a me ci parte di a me ci parte di a me ci parte di a me ci parte di a me ci parte di Thank you. che forse devo dire, ho citato la prima striscia per caso di dire, ma dalla forse devo dire, io non ho dalla collega, troppo sotto da lì, l'auto è scattata, troppo sotto da qua, è sotto da lì, forse deve crescere, però sotto da lì, tanto portate lì, tanto, io ti direi, tanto più per sempre, forse devo dire, ma non è che non è tutto, ma forse devo dire, Thank you. insieme che ho un padre che saranno tutti da altre famiglie. Quando gli inserire o passare il secondo, inserire due le grida, se li sai, se vuole chiare le grida, se vuole chiare le grida, se vuole chiare le Yeah, that was τους τούτης, και ούτε θα πω τούτη που θα είσαι όλοι μας σε εμάς. Και άμα δεν είναι η ίδια η δίκη, άρα δεν είναι η ίδια η δίκη, ούτε θα είναι η ίδια, άρα δεν είναι η ίδια, να μην διαφέρουσε την πρέπει σαν την διαφέρουσε με την υπέρη. Και άλλη συμπέρουσε, μεγάλα δίκη, Thank you.